oggi, sono belle, sono belle. Ok, rivolte a tu. Scusami, cosa è successo? No, stavamo dicendo di che macchine che sono belle, a me piacciono tantissimo macchine d'epoca, era moto d'epoca. In questi raduni buona grandissima parte, soprattutto le moto le abbiamo fatte noi, macchine un po' di meno, però di moto ne abbiamo fatto una marea quando ci sono questi raduni di manifestazione, sono tutti amici di queste federazioni, eccetera, eccetera. Di nuovo Daniele, no, infatti è una macchina non troppo impegnativa, che te la puoi usare anche tutti i giorni, anche un 127, un 128, non dico macchine preziose, tipo coso integrali, quelle lì lasciamole perdere, non hanno più mercato come prezzo, non te le puoi permettere, però macchinette piccoline, anche un 112 che non sia neanche Abbat, è bellino, ti fa la sua punta figura, la fa sempre. Sì, sì, sì, è vero. Sì, utilitarie, mica hanno fatto la storia alla fin fine, insomma, utilitarie, tra virgolette, perché secondo cosa non sono tanto utilitarie, però le puoi usare tutti i giorni. Però quelle cavolo, le aggiornate con le macchine. Le grosse pretese, perché se ti vedi già una macchina grossa, un 2000 di quelle vecchie, quelle consumano. E col costo della benzina di oggi vi lascia un po' attenti, ma un 127 con un 900 non consuma niente. Prima macchinette così, un 850, che a me piace tantissimo un 850, in modo che ti puoi anche spostare se ti vuoi fare. La 500 è bella, però e dove vai a 500? Massimo fa 90-100 all'ora, velocità massima, per cui se ti devi allontanare, trovi una salitella, non riesci neanche a seguire il gruppo. Devi avere sempre una macchinetta un po' che ti permetta di avere un po' di brillantezza. Ok, signori, io vi lascio, che come dice Carlo, vi lascio per deliberare, signori della Corte e di Palmadola, vi lascio per deliberare. Ciao a tutti, chiudo le comunicazioni, magari se c'è qualcuno più tardi, ma sarà difficile che ci sia. Ciao Daniele, ciao Antonio e ciao eventuali amici SWL, ciao ciao. Ehi Robe, già ci aggiorniamo prossimamente su queste onde radio, non su questi schermi, non si può dire però. Va bene, dai Anto, ti rilancio a te. Ciao Robe, ci sentiamo alle prossimine, ciao ciao. E quindi Anto, hai sollevato l'antenna? E un po' l'ho sollevata, boh, avrà migliorato qualche cosa, è meglio e peggio. Ah, mi sembrerebbe il meglio, stai andando liscio col K. Eia, adesso si primano. No, va a vedere. Che microfono stai usando? Sempre 60 Quello lì è, ma sto parlando da lontano. Va bene, va bene. Con quanti watt stai uscendo a tu? Con 10? Una cosa del genere. Già va bene, dai. Già va bene, già va bene, sì. 9.30, sì. Anche il mio segnale è aumentato di sicuro. Sì, sì, c'è uguale. Più o meno mi arrivi così. Però quell'arringo è micidiale. E via, non è tanto grande, ma è potente, c'è forte. Vincono la Grand Play. Sì, dai. Ma si difende anche tu, dai, niente da dire, sono fatto d'onda. Aspetta un secondo, ancora no. Io sono sempre per le 5 ottavi, la verità si dica. Eppure non è male. Vediamo, cioè, se la ricezione sta comportando bene. A me interessa la ricezione anche. Poi i segnali, o via dicendo, non interessa, ma se arrivi forte in radio e mi capisca il resto, si può sempre risolvere. La nuova non sono riuscita a smetterla, cioè secondo me hai sbagliato la misura che ti caseggate. E di quale antenna tu? Sempre la ringo nuova, non sono riuscita a smetterla. Come mai? Secondo il mio parere ho sbagliato la misura. Cosa c'è? Sempre quel cursore e quello spiraletto? Gli avevo fatto nuovo questa volta. Gli hanno fatto il cursore nuovo. aspetto. Cioè, ma c'è qualcosa di strano, certo. No, sei sicuro che è preso te, è messo bene gli innesti, le cose? Sì, sì, perché tanto c'è una cosa obbligatoria. Non so cosa devo fare, prendere il metro. E misurare quanto è lunga? Quanto? Oh, Daniel, scusa, sono sceso un attimino giù. Ehi, stavo dicendo, devi prendere la misura? Sì, ma secondo me è più lunga. Secondo me. Perché deve essere 4,80 m. Ehi, cavagava. Prova! Ti do un'occhiata a come modo. E poi vedi. No, è sbagliato ivi. Tanto io me ne accorgo, mi. Quando metto il metro, perché quella di deposito ho dovuta accorciare. Cazzo. L'ho messa a 4,80 m e l'antenna non l'ho metrato. Cioè, variava. E va bene, va bene. Vedi, ripeto, come modo la controlli e poi... di cosa farli. Ma glielo dico mio il costruttore. Cosa tu? Mi faccio telefonare da Fuggiaro, glielo dico, che non va bene questa storia. Se no, vedi, la porti lì in deposito a te e piano piano cerchi di smettartela. Ma quanto c'è le stazionali? Alte. Cazzo, a meno di 1,4 non so che riesci ad abbassarle, ma è possibile. Di cacchio. Cazzo, questa è a 1,1. Cioè, ma poi gabbo semmo cosa. E l'altra che c'hai da te? Ma così muove. Non ce n'è stazionaria, no, non esistono. Un po' è come qua, dai. Anche io qua per dire, se mi sposto il canale non fa appena, ma proprio minimamente d'accordo, dai, e poi sacca subito. Come l'hai tarata tu? La mia non si sa, la mia è già pre-tarata, capito? Quella misura lì devi solamente, sì, cioè, fuori, metti la vite e sei obbligato a tenere quelle misure. È meglio, perché c'è un messaggio, è meglio così, mi metti di gabbo. Eh sì, perché sennò poi diventi scemo. Ben vengano queste soluzioni, dobbiamo fare altro che piazzare e andare. Ma appunto anche la Lemme comunque avrebbe dovuto fare invece di tagli, rendere scatole. Sulla ringa avrei dovuto fare una cosa già tarata, quello è blu. Invece c'è quel cursore vabbè, che prendi e devi trovare il punto giusto, ma che non sia stata già preparata con che ti hanno lasciato un segno e da lì c'è il punto di partenza. Ma troppi casini, troppo che non avrei così. E poi non riesce a tararla e tutte le cose, capito? Invece no, dovrebbe essere già preparata, dubbone, i pezzi se andende, invece c'è il gabbo. Aspetta un secondo, tu sto parlando con mio figlio. Sì, io. Antu! Eia! Lui così, adesso questo qui l'ho vulcanizzata un po', lascio questa, funziona bene l'antenna. Se abbiglierà e luce, poi quella là la vedo con calma, me la guardo. Ehi, Antu! Se funziona! Poi quella magari prossimamente te la controlli, però se va quella lascia questa. Lascio questa, sì che va bene, ma volevo mettere nuova, visto che ce l'avevo nuova, adesso vediamo cosa fare. Ho visto la borsa, sopra. Vediamo un po' cosa annesci. Cara, cara. Va bene, va bene. E adesso metto un po' la cena, è quasi pronto, e poi domani forse lo fa addosso. Cacche domani, cacche quando, cattare coro. Lo coso, lo tattaggi a vedere se compaghi dai di sopra. Cosa, tu? Qualche giorno? Qualche giorno che ci vado qualche domenica, arrivo il suo tattaggi a vedere se compaghi un ghisa. Cara cara, provalo. Provalo e vedi. Signori, arrivino per 30 come te chiccio. Ciao ragazza, bene veda, bene veda. Io mi sono un po'. Faccio il libro, cosa è successo? Mi guarda questa, la gran premia. La gemella della mia è questa. Scappa. Daniel. Io so che si tende a mangiare cazzarola. Sì, anche qua sta preparando. E vediamo un po'. Oi. E va bene, questo lo sto prendendo. Noi a fiatto, noi uno turbo. Io sappiamo un po' voglia. Via. Cavolo, se non contava. Cosa camminava forte, schicchiava forte quella. E metti che male con le ruote, come scrivono qua. Ma io mi ricordo che tu c'avevi l'Abarth. Sì, quella 500 rossa avevo io. Poco bombava chissà. Non ti credere, Roman, tu, a fine. Mi aspettavo molto di più, non ti credere che facesse. Velocità di 1.400 faceva, Ma qua c'è la vettura normale o la SS? Aveva 500 watt, il nuovo modello sto dicendo, quella rossa. 140 cavalli. Il modello base era. Quello SS era un kit di allestimento alla fine, non di che. Capitava lo scarico, le cassettine varie. No, la migliore è la 6596. O cosa cavolo? Quella già pompava forte. Avevo la Germania, avevo quella che c'ha Federico, quella nera. Io ti faccio che è venuta la pizza, ciao, sentiamo. Bene, tanto dai, buona cena e buon tutto, dai, a dopo le prossime se coincide. Andiamo, Luca! Luca! Andiamo, Gigi! Non c'è nessuno. Daniele c'era poco fa. Capito, è coccomane. Questo è coccomane. Andiamo bene, andiamo. Uia, ho il cubello. Io cubo. A pranzo ho mangiato carciofi. Mamma mia, ho atomiche. Tu mi addrodio. Le bombe atomiche, canto. Lo so già. E molti fa così, che non mangia il cazzo a fa, Uia. Ma anche con la spada che lo fa. Davvero? Sì, perché contiene ferro. Che vecchia, ma il carciofo è ancora di più. Quando è capitato dovevo mangiare i carciofi a spada, dici, esatto Antonio mio. Manco Putin va a tirare i rumori. Stava a tagliare i guai a Putin. Prima volta a presto, le volte lo portare a fare una visita. E poi ne ho io dopo questo mese ne ho due io. Ne ho una da dermatologo e l'altra da otturio da ingoriatra. fate il buio, no? Inoltre noi ci trattandiamo, poi non lo fate, che poi è un casino. Capito, Antonio? Devi stivo un infatti, prelievi del sangue, ma se attacchiamo sui primi, faccio fare la impegnativa e faccio un controllo anche per le, con i prelievi. Così siamo più tranquilli. Perché se c'è qualcosa che non va, bisogna curarla. Cappa. E adesso. Ma quanto l'hai pagato il vulcanizzante, Tullo? Quelle? Il vulcanizzante, quanto l'hai pagato? L'ho pagato? Boh, 7 euro, 8 euro. E così costa? Mi stai facendo dalla cammicciuria? E ormai non la giù più. Parliamo 2 anni. Un pezzo, forse un pezzettino mi è rimasto, boh, non me ricordo. Mi sa essere qua, no. Se c'è lo sgabuzzino, se no non me ne è rimasto, lo sai tu. E sai perché non me ne è rimasto? Perché l'avevo vulcanizzata. E poi non posso andare sotto, sotto. Invece al contrario, bisogna mettere la sezionante sotto e la vulcanizzata sopra. Perché la parte più grossa l'ho dovuto levare e metterlo di nuovo. No, io li metto vulcanizzata in meno. Perché se è buono si attacca subito, ho capito. Vabbè, ma era per proteggerlo, capito? Cappa. Uia. Cazzo, ma oggi mi ha fatto girare le scatole con l'antenna nuova. Non sono riuscito a smetterla. Ma secondo me, vari dubbi troppo, boh, ha sbagliato le misure. Boh, tu se l'hai comparata, Adorri. Vabbè. Comunque, adesso la guardo io. Vediamo un po' domani se ci riesco. Quella smotta, quella là. Poi c'è qualcuno che la vuole. 30 euro, roba nuova. Ti manco una domanda, ma prima qui già rimane lo sgabuzzino. Appunto. E quella che mi ha dato Marco, quella piccolina, sotto la mantova, la uso come seconda antenna. Ma è così? Sì, perché se la metto dove c'è l'antenna TV non va bene, no, già c'è quella della VU. Vedi un po' cosa vuoi fare. Aspetta che ti telefoneggio un attimino. Che bella. Oh, Antu! Antu! Oh, oh, Antu! Ah, Antu! Oh! Attention, Lucariello! Ehi, Seminoghi! Avanti! Oh, Jesus! E allora, me? Stavo parlando al telefono con Luca. Tino, mi ha aumentato da te qualcosina? Ma per me sei sempre il 9.20, credo di non fare niente di differenza. Già va bene, dai, perché ho sollevato un pochino, ma ho visto qualcuno appena appena di più, non vedi una differenza. Vabbè. E io quanto sto arrivando lì? Più o meno sei così. Allora, basta, già va bene. Devo che andare. Cappa, ma fatici di gabbo oggi. Devo vedere che, la prossima domenica me la porto sul deposito. E devo cavarmi i beni, perché non sono riuscito a trasmettere la nuova Ringo. Non mi busso la vita. Vabbè, futtisini, già va bene, magari. Andare. Cappa. Secondo me la misura è sbagliata, perché me l'avevo fatta a posto di quella rotta. Insomma, io non si riesce a rasmettrarla, però. No, non riesce a abbassare la stazionaria, che è diverso. Non riesco a abbassare la stazionaria. Capito. Adesso gli antennai. Sempre quella, ma sta di molto la veccia. No, beh, quello non so cos'hai, se ti posso aiutare. La Ringo. La Ringo, non la conosco. Cappa. E già conosciuto a Enda, quando tiro il metro te lo dico io a vedere. Perché se è, più di, se è 5 metri non va bene, deve essere 4,80 metri. perché se no non lo aspetta. Vabbè, sai, le statistiche che ti dicono, io mi ricorderò sempre, quando ho pensato la prima Mantova 1 che avevo comprato, lontano 89, allora le istruzioni dicevano che nella spirale, praticamente tra un muro dall'altro dovevo stare 5 centimetri dall'anello dove va attaccata la spirale. L'abbiamo messo, ho fatto il rosmo, tra era 1 e 1, perfetto, perché tanto oltre non ce la fai a passarla. Sì, no, ma è buono quello, sì. È buono. Però qua c'è qualcosa che non va. Io quella che c'avevo, l'ho guardato su internet, ma quanto è lunga questa antenna? Io l'ho fatta a 4 metri e 80 e l'antenna sono sparita le stazionarie, quella che c'è in deposito. Stazionarie non ce n'è. Allora mettila quella lunghezza lì, perché sennò tu sai benissimo che alzando o abbassando lo stilo aumenti o abbassi le stazionarie, però se hai una misura devi fare quella. E poi c'è lo stupore che lo deve girare Ferres, ma sono convinto che una cosa del genere, quando la prossima domenica secondo commentato metto la borsa in deposito, tiro al metro, se è di più non va bene. Così rispetta le misure, vedrai che andrà bene. Giappa, ma che buono è di danni giappa, o rugoso, come si dice, ci hanno già messo la vita, capito? Cioè, per far rispettare le misure, invece non è così. Secondo il mio parere, io li ho messi a confronto con quella lame, ma è più lunga, guida, la nuova. Perché io ce ne ho due. Quella che a me mi sembra, quella che ho io è giusta, quella a me mi sembra più lunga, per quello che non c'è nulla, non smettere già, ma così ti ammazzi. Ma così. Ma è stato Luca, poc'anzi, Luca. Tanto devo salutare, perché devo prepararmi la sacca per domani e devo partire un pochino presto, quindi mi devo dare una sveglia alle 5:30. Pure io mi addormento, cioè mi levo dal letto perché non sto tanto bene. Ok. Ciao a buonanotte. Beh, buonanotte a tutti, dai, questo canale. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao a tutti, ciao. Ciao.